Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a Luca Giulio per la regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. L'appuntamento viene rinnovato per domenica 18 maggio, perché domenica prossima, come sempre in concomitanza di fatti o eventi elettorali, noi veniamo andati in vacanza. A domenica 18 maggio alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Salve a tutti.